Scusate il ritardo in rientro, abbiamo ascoltato un po' la nostra sigla, sono arrivate risposte, una esatta è particolare quella di Laura, buongiorno a te Laura e grazie, mi fa un po' impressione a pensarlo, specialmente all'ora di colazione, ma forse stiamo parlando della nutria, no. No, non era affatto questo castorino di fiume, no. Tra l'altro, purtroppo, visto che io mi permetto, sono in zona, stanno procurando con queste tane importanti dissesti nelle zone arginali. Comunque io lo dico a bassa voce, io ho simpatia per le nutrie, quindi... E arriva anche un SMS non firmato, cerco di recuperare ma non riesco a trovare la firma. Le nutrie, no, non sono le nutrie. E invece arriva la risposta esatta da Michele, grande Michele, che dice: ma non è che sono le rane? Esattamente, sono state le rane con questo sacrificio a salvare una popolazione ridotta alla fame. Per ricambiare questo sacrificio importantissimo tra le immagini e le icone della città di Crevalcore vi è appunto la rana. Grazie Michele. C'è, Laura, no, scusate che ultimamente ne vedo molte. Sì, riproducono veramente alla velocità della luce. Grazie Laura, grazie Michele, grazie anche all'anonimo ascoltatore o ascoltatrice, risposta esatta quella di Michele, che si potrà recare per la giornata di mercoledì 21 febbraio ovviamente 2024, due ingressi per Michele allo spettacolo L'anatra all'arancia. Mercoledì 21 febbraio, protagonisti sul palcoscenico per la stagione Tre teatri per te, Emilio Solfrizzi e Carlotta Anatoli. Grazie. Just gives me the blues. Ovviamente sarai ricontattato, Michele. Un caloroso abbraccio a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori, mattiniere e mattinieri del Breakfast Club, in questa giornata di vigilia di weekend che sta svoltando, se vogliamo, anche su dei colori e su un speriamo sereno che ci accompagni per le giornate di weekend. Ufficialmente ne ho dato in last minute una piccolissima presentazione il 13, è il giorno stesso dell'esordio, ma sarà fino al 25 febbraio, quindi oggi darò la puntata estesa di conversazione con Roberta Lidia De Stefano per il lavoro di Grazia, regia e drammaturgia con Alexander Roccoli e la stessa Roberta Lidia De Stefano sul palcoscenico dell'Arena del Sole, sala Thierry Salmon per essere più precisi, ma per essere ancora più precisi vi dico che il martedì alle ore 19, il mercoledì alle ore 21:30, giovedì e venerdì alle ore 19, sabato 21:30, domenica alle ore 18. Ovviamente tutte queste informazioni le potete trovare con più comodità sul sito di ERT Emilia Romagna Teatri. Allora, il focus è l'ambito del focus lavoro, un percorso che viene in maniera lodevole e meritoria portato da ERT. Già abbiamo trovato delle specificità per una realtà che purtroppo è costantemente in difficoltà, messa in difficoltà, e dire che il lavoro è l'articolo 1 della Costituzione italiana, ma oramai purtroppo, lo dico con una mestizia misto rabbia che non potete immaginare, da operaio potete ben capire. E intanto gli aspetti che sono stati portati finora: il capitale, una lettura con Kepler 452, le serve del grande Jean Genet, questo autore controverso

trust. Let me tell you about us. On the line of word love. See, it ain't about lust. It's a spiritual love. Oh, what a feeling. Impossible to measure it. One can only treasure it. Sort of like a legacy. Maybe it's my destiny. Maybe it's a test for me to bring out the best in me. Who knows, who cares? All I know is that there's a reason for everything. And whatever fate may bring. See, I didn't plan this. Some don't understand this. They try to play the role in thinking that's what a man is. To me, she's more than just a fashion accessory. And I'll protect her by any means necessary. Two hearts, two minds, two bodies, two souls. Brava Roberta Lidia Di Stefano, brava ERT, la Fondazione Emilia Romagna Teatro e Focus Lavoro, quanto mi fa, mi mette inquietudine, mi dire dispiace è un eufemismo, perché è fondamentale trovare un allineamento tra il mondo operaio e tra i contenuti culturali di produzione artistica. È un fondamentale, non c'è questo, e vedete come i due mondi non si alimentano a vicenda con un divide timpera che gioca a favore unicamente del liberismo, quando anzi addirittura trovo un allontanamento che è favorito appunto dalla società in cui stiamo vivendo. Lo stesso mondo operaio delle volte, a parole crude, a parole ingiuste, ecco, per meglio dire, su chi si occupa. Io ho provato entrambe le situazioni, sto provando entrambe le situazioni, e vedere la non conoscenza da parte di chi fa contenuti artistici, di chi propone cultura per quanto riguarda l'ambito operaio, e soprattutto viceversa, quando invece il mondo operaio non conosce, è un lavoro. In entrambi i casi siamo lavoratori, ve lo dice un operaio, un facchino della logistica, un capo cantiere, uno che è stato in fabbrica, che per 25 anni è stato insomma da dipendente e conosce bene le problematiche del lavoro. Ho fatto una scelta, ora mi occupo di altra produzione, certo è un ambito diverso, ma è lavoro. Ma che lavoro fai? Lavoro in radio? Ma no, dimmi, ma no, dai, che lavoro fai? Lavoro in radio, cioè è un lavoro a tutti gli effetti, con tutte le problematiche, gli aspetti che sono anche, è certo, e poi normale anche adoperare questa parola, faticosi. Sono andato a letto alle 2, ho puntato la sveglia alle 4:30, quindi insomma non è che ci sia un aspetto di serie A o serie B da una parte o dall'altra. Quando questi due mondi che dovrebbero assolutamente dare una critica univoca a quello che stiamo vivendo, perché le difficoltà sono quelle, le difficoltà in ambito lavorativo, e finalmente che Emilia Romagna Teatri, già con il Capitale, la lettura del Capitale, portando operaie e operai della GKN sul palcoscenico di Arena del Sole per un avvicinamento. Gli stessi ragazzi di Kepler 452 hanno fatto giustamente l'osservazione. Ci rendiamo conto che questa spaccatura è tremenda. Andiamo sul palcoscenico allora per continuare a parlare di lavoro. Lo facciamo con un'altra declinazione importantissima, il lavoro e le donne, con Di Grazia, Roberta Lidia Di Stefano. In questo caso ci parlerà anche di quelli che sono gli aspetti esattamente relativi al palcoscenico per quanto riguarda questo spettacolo. E a questo punto, dopo aver capito argomentazione, sacrosanta denuncia, contenuti, parliamo anche di un aspetto scenografico e oltretutto anche di colonna sonora. Ci puoi dire qualcosa di più, senza svelare ovviamente troppo? Sì. Ah, allora, intanto la scenografia adesso non la svelo, anche perché è già stata abbastanza svelata, ma comunque siamo in un mondo rurale, in un contesto di un sud che può essere il nostro meridione, appunto bagnato dal Mediterraneo, ma anche un sudafricano, un sud della Spagna, un'Andalusia, cioè tutti quei posti dove si consumano questo tipo di modalità di lavoro, no? Nei confronti delle donne e non solo. Siamo dentro ad un mondo che è legato all'agricoltura, per cui terra, montagna, legno, tutto l'immaginario della materia, appunto così un po' caldo, un po' legnoso, concorre a creare una materia come dire, quasi una catasta, non so come dire, una catasta molto fragile, pronta a rompersi, un po' come la voce di queste donne. C'è un po' tutto, concettualmente tutto molto collegato anche alla drammaturgia, in questa fragilità, insomma, che vogliamo raccontare io e Alexandro Colcoli, che poi è con me coautore e coideatore del progetto. Dal punto di vista delle musiche c'è un lavoro, diciamo, di ricerca abbastanza lungo che è stato fatto. Si passa da qualcosa di più lirico, di più, diciamo, dei canti popolari resi un po' con quasi operettistica, ecco, fino ad arrivare ai giorni nostri, quindi immaginare un po' più techno, più contemporaneo. Ecco, cerchiamo di fare questo viaggio con delle stazioni di questo personaggio che si chiama Rosetta, e faccia come una sorta di metamorfosi, se vuoi, negativo rispetto a quello che le succede nel suo percorso di iniziazione più che di formazione, ecco, perché è quasi un po' un romanzo di iniziazione questo percorso. Lei è inconsapevole di quello che le succederà uscita da casa. Titolo di questo brano, come colonna sonora alla nostra conversazione già anticipata ora in versione estesa, visto che è attinente alla rubrica In Scena e che sarà in scena fino al 25 febbraio, quindi ancora sul palcoscenico per la Fondazione Emilia Romagna Teatri. Di grazia Roberta Lidia Di Stefano e Alexandre Roccoli. Stereotipi, abusi di potere, oltretutto a volte, anzi, quello che leggiamo e quello che troviamo, questi abusi di potere sfociano anche in una parte che va sul corpo delle donne, donne migranti, donne lavoratrici, donne che soffrono ancora una disparità salariale, reazioni che sono veramente molto forti e che sono ancora a discapito di un lavoro femminile che in maniera assolutamente arretrata è condannata, e qui evidenziato dal lavoro sul teatro Arena del Sole. Il focus lavoro procede e questa parte, che ancora non è andata in frequenza, dà una completezza al dialogo tenuto con Roberta, e quindi procediamo per quello che è lo spettacolo Di Grazia. Sì, perché poi ci sarà la giornalista, fotografa, insomma, d'inchiesta anche Stefania Prandi, perché chiaramente il suo libro Oro Rosso è stato uno dei miei punti di riferimento per la ricerca bibliografica. Devo dire, prima sono stati altri, però effettivamente mi sono accorta proprio che c'era una forte connessione senza conoscere, no, il suo lavoro, ed effettivamente mi ha aperto un mondo anche dal punto di vista proprio dell'informazione e della divulgazione, perché questo lavoro, pur non essendo un lavoro documentaristico e divulgativo in senso stretto, perché ha più un côté performativo, musicale, poetico, ha una drammaturgia costruita a strati, appunto, non in maniera classica, ma chiaramente ha fatto tesoro di tutte le informazioni bibliografiche, di tutte le dati anche proprio, no, dell'osservatorio antitratta, piuttosto che delle condizioni anche del welfare dell'Unione Europea destinate all'agricoltura, che poi sono la base per cui molte di queste persone, donne e uomini, braccianti, italiani, stranieri, eccetera, eccetera, straniere e italiane, siano pagati così poco, perché alla base comunque c'è un problema di fondo anche proprio della destinazione di certi fondi, ecco. Nell'ambito meritorio di Focus Lavoro, curato da Emilia Romagna Teatri, aggiungo un'ultima domanda prima di lasciarti al lavoro. Da quello che ho capito è un lavoro, oltre che fisico, è anche emotivamente molto forte, immagino. Com'è? Sì, devo dire che allora intanto ho colto al volo l'invito del direttore Walter Malosti e della produzione a collocare questo spettacolo nel Focus Lavoro, perché mi sembrava molto molto pertinente. Grazie a questo, diciamo che ho affondato un po' verticalmente la radice di questo lavoro proprio nel concetto, perché emotivamente per me proprio da attrice è un percorso di grande sofferenza, perché è come se mi facesse ripercorrere un po' delle tappe anche del mio vissuto, anche molto molto pesanti, adesso senza entrare nei dettagli, però chiaramente io userò un po' un medium per raccontare questa storia, che è anche la storia di Sophia Loren, della Ciociara. Ci sono dei riferimenti cinematografici molto molto impegnativi, anche che vanno dentro l'emotività, vanno a richiamare un po' una ferita ancestrale, no? che riguarda un po' tutti, per cui il corpo e la voce, che poi il corpo e la voce, corpo voce, voce corpo, non sono soltanto un racconto, non sono la narrazione, ma si fanno in qualche modo campo di battaglia, si fanno campo di lavoro, campo di battaglia, luogo di sopruso, no? luogo fisico, luogo pulsante. E per quello anche appunto il regista Alexandre Roccoli ha creato anche, come dire, assieme a Lucia Ferrero, un disegno luci palpitante, Gerarda Vallone al sound design per questo riallestimento ha collaborato tantissimo con me nella realizzazione di queste presenze che abitano questa donna, che è quasi folle, no? Che è quasi non creduta nel suo essere abusata, nel suo essere in nulla praticamente, buttato nella terra, come dire, passivamente utilizzato come corpo, ecco. Sì, io ti ringrazio tantissimo, anche le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio Città Fujiko, per la rubrica In Scena del Breakfast Club. Ti auguriamo buona giornata, ci contattiamo ricordando che dal 13 al 25 febbraio di Grazia di Alexandre Roccoli e con Roberta Lidia Di Stefano. Grazie e buona giornata. Grazie mille, grazie. We at the family reunion, telling jokes and playing spades. Uncle Dave is on the barbecue grill. Grandma bragging about the blanket she made for the new baby on her way. Even though the daddy ain't really ready, this child is coming anyway, yeah. Niecy made her famous potato salad. Somehow it turns out green. Maybe it's all the scallions. Aggiungo solo e ribadisco alcune informazioni. Martedì è in scena alle ore 19, mercoledì ore 21:30, giovedì e venerdì alle 19, sabato 21:30, domenica ore 18. Di Grazia, la curatela di Emilia Romagna Teatri, ambito di focus lavoro, teatro Arena del Sole, con Roberta Lidia Di Stefano, ideazione, regia e drammaturgia di Alexandre Roccoli e la stessa Roberta Lidia De Stefano. A tra poco, la rubrica in scena procede dopo la pubblicità. Buon ascolto con Jill Scott. Been drinking again. Ooh, it's only 1:30 in the afternoon. Everybody tiptoeing round her. We all know she's gonna be so up soon. Saying all the things we like to say. Hope she gets around the cousin Lonnie. Cause we all know he got a little extra somebody on the side. Look at that, what happened is worse. They knocked over Eleanor's lemon cake. You know, the one she barely ever made.